e bentornati come ogni sabato sera qui sulle onde di Radio Wombat a Tonight Alive. Questa sera lunghissima sigla di introduzione per il protagonista della puntata. Questa è la puntata numero 31 di Tonight Alive. Questa è sempre Radio Wombat e qui a intrattenervi per questo sabato sera il vostro fedele Dalai Lama. Spero l'abbiate riconosciuta la sigla di stasera, il pezzo in assoluto più famoso e anche quello che ha riscosso maggior successo della premiata ditta, Donna Summer e Giorgio Moroder, perché il protagonista assoluto di questa serata di Tonight Alive è proprio lui, Giorgione Moroder. E c'è, a proposito di questo pezzo epocale del 1976, ho un aneddoto del quando Brian Eno e David Bowie erano a Berlino nel 1977 durante la registrazione del loro album insieme, Heroes. E in un giorno di registrazione Brian Eno entrò di corsa dentro lo studio e disse: Ehi David, ho sentito il suono del futuro. E fece sentire a David Bowie I Feel Love, appunto, di Donna Summer e di Giorgio Moroder. E allora Bowie guardò Brian Eno e disse: eccolo qua, non cercate oltre. Questo disco cambierà la musica da discoteca per i prossimi 15 anni. Giusto per far capire un attimo l'impatto che ha avuto questa canzone sui suoi contemporanei. Però prima di fiondarci a bomba nel mondo di Giovanni Giorgio Moroder, come sempre ricordiamo tutti i nostri indirizzi, che ovviamente il sito è sempre wombat.noblogs.org. La nostra amatissima mail rimane sempre la stessa, postawombat@insiberia.net. I nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle ultimissime notizie di Radio Wombat sono su Twitter, twitter.com/radiowombatfi, e su Facebook, facebook.com/radio-wombat-Firenze. Ma rifiondiamoci subito sul protagonista di questo nostro sabato sera, che appunto è Giorgio Moroder, che è un nostro conterraneo, anche se sud tirolese. Infatti è nato a Ortisei il 26 aprile del 1940, e appunto nascendo in Val Gardena, in territorio ladino, sapeva già, è cresciuto in un luogo poliglotta, perché sapeva parlare fin dall'infanzia il tedesco e l'italiano. Poi, come vedremo dopo brevissimo, imparò anche l'inglese. Ma appunto la sua passione musicale iniziò molto presto. Infatti iniziò a suonare la chitarra già da adolescente, e già nel 1959, a 19 anni, lascia la natia Ortisei e la Val Gardena per girarsi l'Europa con i suoi primi gruppetti musicali, tra cui forse quelli dell'inizio. Il più noto fu il The Happy Trio, che arrivò anche a suonare al Savoy Hotel di Londra. Poi, dopo tanto peregrinare a giro per l'Europa, per i suoi tour, nel 1967 prese per un po' residenza a Berlino e decise di non intraprendere altri tour con altri gruppi musicali. Però iniziò a dedicarsi allo scrivere canzoni e demo per se stesso e per gli altri e per altri gruppi musicali. All'inizio collaborando tra l'altro anche insieme a suo cugino Alex, e proprio in quell'occasione lì, con quella prima collaborazione un po' più professionale, Moroder si rese conto che era quella la sua strada, e da lì al suo primo brano di successo la strada è stata abbastanza breve, perché in quel 1967 incise a nome Ricky Shane il suo primo successo in lingua tedesca, tra l'altro, Ich sprechen alle Ketten, che ci andremo a sentire, vi farò sentire subito adesso per capire da dove è iniziato tutto. 1967, Ricky Shane, Ich sprechen alle Ketten, su Tonight Alive, Radio Wombat. Questo era l'esordio discografico nel 1967 di Giorgio Moroder a nome Ricky Shane, che per poi è un bell'impatto, avendo in mente quello che poi ha fatto Giorgio Moroder, sentire da dove è partito in tedesco poi, però ovviamente il tedesco lo parlava come l'italiano, anzi sicuramente meglio il tedesco che l'italiano, essendo altatesino. Però ecco, poi nell'anno successivo, nel 1968, inizia, dopo questo successo di Ich sprechen alle Ketten, inizia proprio definitivamente l'attività come cantante di musica leggera, e incidendo anche diversi 45 con i nomi d'arte Giorgio oppure George, dapprima con l'etichetta Miura, poi per un'altra etichetta che si chiamava First, e inoltre nel 1970 parteciperà anche al Cantagiro con questa sua Lucky Lucky. Andiamocela a sentire. Giorgio, Lucky Lucky. Okay. Long blonde hair and pretty eyes so blue. Just the way she holds me in her arms, love and charms for me. Questa appunto era la canzone che Moroder nel 1970 portò al cantagiro, molto molto molto sbarazzina, devo dire, eh? E poi nel 1971 si spostò definitivamente a Monaco di Baviera, dove fondò il suo primo studio di registrazione, l'Arabella House, presso i Musicland Studios appunto di Monaco di Baviera. E quel 71 fu un anno decisivo, perché si iniziò la storica collaborazione con un altro, quello che poi diventerà il suo sodale per il resto della sua carriera produttiva, ovvero iniziò la collaborazione insieme a Pete Bellotte, con il quale incise il suo primo long play, il suo primo album, che era appunto Son of My Father, si intitolava, e che verrà poi pubblicato anche in America dalla ABC Downhill Records, e che fu attribuito solamente al solo Moroder. Fu inciso anche per l'America, perché appunto nell'anno successivo, nel 1972, Moroder fece il suo primo road tour in America per promuovere appunto il suo album appena uscito. E da questo album del 1971 ci ascoltiamo appunto la title track, Son of My Father, che tra l'altro era stata scritta insieme a Chicory Tip, e prima canzone che Giorgio Moroder fece atterrare negli Stati Uniti. Giorgio, Son of My Father. E questa era Son of My Father, attribuita a Giorgio, tratta appunto dall'omonimo album, il primo in collaborazione con Pete Bellotte. Si sente infatti l'intervento, secondo me si sente già qua l'intervento di Bellotte nell'evoluzione del sound di Moroder. Ma ecco, in quel 1972 Moroder smette di suonare il basso, strumento a cui era passato dopo la chitarra, per iniziare a studiare i nuovi sintetizzatori, quelli che stavano venendo fuori proprio allora, soprattutto grazie a Robert Moog e a Buchla insieme a tanti altri. E quello fu l'anno in cui ascolta i Kraftwerk, rimane folgorato dai Kraftwerk nella loro fase robotico ballabile, e tra l'altro rimane si innamora delle colonne sonore di fantascienza, e in quel crogiolo di influenze latino-teutonico-americane ne scaturisce questa predisposizione verso questa melodia in progressione, da un ritmo possente con degli effetti elettronici molto marcati. E appunto in quel 1972 è un anno fondamentale, anche perché i due produttori incontreranno la cantante di colore Donna Summer, che tra l'altro era un ex corista della chiesa di Boston e tra l'altro anche ballerina del famosissimo musical di Broadway Hair, che era lì in Germania perché si era sposata con un tedesco durante una delle sue tournée europee. Sicuramente con l'introduzione di Donna Summer arriva quell'elemento soul, quell'elemento nero che farà definitivamente esplodere la miscela musicale di Moroder e di Bellotte, che poi vedremo che darà proprio il là a un'ulteriore espansione della disco music. E dopo aver registrato un demo che inviarono ai Three Dogs Night, che se avete seguito l'ultima puntata di Basement Records abbiamo anche messo, li inviarono ai Three Dogs Night perché allora erano tra i collaboratori della ABC Downhill, e poi i due pubblicarono il primo singolo con Donna Summer, dal titolo Hostage, e tra l'altro fu subito un grande successo, e a seguito di questo successo in quel 1974 fecero uscire subito a ruota anche il primo album di Donna Summer, Lady of the Night. E nel frattempo Moroder continuava anche a pubblicare dei suoi singoli un po' più sperimentali, come i due di quel 1974, mi viene in mente Marrakesh oppure Born to Die. Però ascoltiamoci questo esordio di Donna Summer su 45, e questo è The Hostage, Donna Summer, Tonight Alive. Hello? Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again. Hello? I remember standing there so petrified, my hand froze into the bone, as the strangest words echoed in my ears and chilled me to the bone. Some dark tragedy had come right home to me. They Hello. And lady, here's your husband. Prove that we're not playing any games. Hi, honey. Listen, I'm okay. Just make sure you do whatever they tell you, and whatever you do, don't go to the police. Package of money out the window and keep driving. And remember, lady, no police. They found my husband a few days later. Yes. The funeral's tomorrow. E questo era il singolo d'esordio di Donna Summer del 1974, The Hostage, con questa telefonata, già... Era già precursore di diversi pezzi dance che sarebbero venuti poi. Però, ecco, adesso arriviamo nel 1975 e il 1975 è proprio un anno focale della carriera dei tre, perché esce quel singolo epocale che è Love to Love You Baby. Un pezzo che ha definitivamente cambiato il volto della disco music. Sono con i suoi 16 minuti di orgasmo simulato. Non era niente di nuovo, perché alla fine la linea di basso era presa dai Crusaders, e invece il pattern di Charleston era ripreso pari pari da Rock the Boat degli Hughes Corporation. Però le mani di Moroder e Bellotto avevano creato questo sfondo sonoro assolutamente sintetico, e la voce nera e soul di Donna Summer con i suoi orgasmi espliciti hanno fatto il resto per farlo diventare veramente un boom assoluto. Tra l'altro è stato il singolo che ha reso famosa Donna Summer in America, e che si dice sia stato proprio questo il disco che ha creato la moda dei 12 pollici, ovvero dei 45 ma molto grandi quanto dei 33, con una definizione sonora e una dinamica del suono perfetta per essere suonata nei giganteschi impianti delle discoteche. E infatti, da questo 12 pollici Loft Love You Baby nascerà poi quella che si può definire l'era del disco mix, appunto, di questi 12 pollici di singoli di 10, 15, 20 minuti per singolo pezzo, e nasce proprio da qui. Però ecco, inizialmente questa pazza idea di una traccia lunga 17 minuti spaventa addirittura la Summer stessa, ma Moro De Rebellot ci tengono veramente a voler realizzare una traccia così sexy e sensuale, ripresa proprio sul modello dell'altra famosissima canzone del genere, la parigina Je t'aime moi non plus della coppia Serge Gainsbourg e Jane Birkin, che era un altro pezzo sul genere famosissimo. Infatti entrambe le canzoni verranno rifiutate dalla diffusione radiofonica perché ritenute troppo erotiche e troppo esplicite, ma questo non farà altro che aumentare il loro successo e le loro vendite a livello di album di 45 giri e di 12 pollici, rendendoli entrambi due dischi da milioni e milioni di copie. Tra l'altro, per la cronaca, sono stati contati gli orgasmi emessi dalla Summer durante i 17 minuti di Love to Love You Baby, e sono ben 22. Quindi non mi resta altro che farvi sentire tutti e 22 gli orgasmi di Donna Summer nella extended version di Love to Love You Baby. Tonight Alive, Radio Wombat, Donna Summer. When you're laying so Thank you.

E questa era la torrenziale e defocale Love to Love You Baby di Donna Summer, prodotta da Giorgio Moroder e Pete Bellotte nel 1975. E nell'anno dopo, nel 1976, la premiata ditta farà uscire ben altri due album, A Love Trilogy e il concept Four Seasons of Love, che riscuoterono veramente un grandissimo successo in tutto il mondo, ma in special modo in Germania e in Italia. A Love Trilogy alla fine procede nella stessa vena del primo album, sfornando singoli di successo come Try Me, I Know You Can Make It, tra l'altro canzone occupata da ben quattro distinte melodie in stile disco, e la cover sempre ovviamente in stile disco della canzone Could It Be Magic. E da questo A Love Trilogy sentiamoci appunto Try Me, I Know We Can Make It, Donna Summer con Giorgio Moroder e Pete Bellotte, Radio Wombat. Oh, Questa era Try Me, I Know We Can Make It, del 1976, tratto da A Love Trilogy. E l'altro album, esattamente un concept album, sempre di quel 1976, era appunto Four Seasons of Love, un concept dove si racconta una storia d'amore paragonata alle quattro stagioni dell'anno, appunto. E da qui, da questo disco, vengono estratti quella che poi sarà una hit assoluta di tutte le discoteche, Spring Affair, e la romantica ballata Winter Melody. Sia A Love Trilogy che Four Seasons of Love riscossero un grandissimo successo, riuscendo a vendere entrambi più di 5 milioni di dischi per album, quindi più di 10 milioni in quel totale dei due album del 1976. Inoltre questo 76 sarà anche l'anno dove Donna Summer otterrà il suo titolo di First Lady of Love, per la sua forte sensualità e per la sua bellezza e per la sua bellissima voce. E questa Spring Affair è un singolo a cui sono particolarmente affezionato, una hit che veramente è stata suonata e risuonata non si sa quante volte da tutti i più grandi DJ disco, di cui vi ho già parlato nelle prime puntate di Tonight Alive, Larry Levan, Tony Humphries, Ronardi, tutti... Frankie Knuckles, tutti hanno suonato questo pezzo. È veramente uno dei miei singoli preferiti del terzetto Moro del Bellot, Donna Summer, e non mi resta che farvi sentire questo capolavoro che è Spring Affair. Tonight Alive, Radio Wombat. Something's coming over me. Ooh. questa era Spring Affair del 1976, presa dall'album, dal concept album Four Seasons of Love. Ma il 1976 è anche l'anno, appunto, della sigla di questa sera, di quella che era la sigla di questa sera, ovvero I Feel Love, il pezzo più famoso forse in assoluto del premiato terzetto Moro del Berlot Summer. E di fatto con I Feel Love si tende anche a definire l'inizio del synth pop. E I Feel Love era contenuto in un altro successivo concept album, che è I Remember Yesterday. Tra l'altro un album che ha riscontrato in particolare in Italia un successo notevole, perché pensate che in quel 1976 I Remember Yesterday, l'album che conteneva I Feel Love, è rimasto in classifica per ben 18 settimane nelle prime 10 posizioni, diventando il quinto singolo più venduto dell'anno in Italia. È stato proprio un successo epocale anche a livello commerciale, perché poi anche a livello musicale comunque I Feel Love è stata una delle sperimentazioni musicali più importanti per una certa tipologia di musica. Ecco, è veramente un pezzo che ha fatto la storia. Però in questo I Remember Yesterday, appunto, oltre I Feel Love c'erano anche delle altre hit, sono state Love Unkind, e la title track stessa, I Remember Yesterday, e anche Back in Love Again. E quindi andiamoci a sentire un estratto da questo I Remember Yesterday, che in questo caso è proprio la title track. Donna Summer e Giorgio Moroder a Tonight Alive, Radio Wombat. We'll be right back. questa era I Remember Yesterday. Ovviamente non ve lo sto neanche a dire, l'album, anche solo perché conteneva I Feel Love, riscontrerà grandissimi successi nelle classifiche e di vendita di tutto il mondo, arrivando a all'incirca un 10 milioni di dischi venduti più o meno, e quindi altro grande successo per Moroder e Donna Summer. E come si dice, siccome il ferro va battuto finché è caldo, specialmente nella disco music e nei generi, diciamo, tra virgolette, un po' più frivoli, l'anno dopo, nel 1977, esce il nuovo concept che si chiama Once Upon a Time, e qui la Donna Summer viene presentata proprio come una moderna Cenerentola che si immerge completamente dentro la disco music. E anche da questo album sono state estratte numerose hit, le più famose delle quali sono I Love You e la scatenata Rumor Has It, che non è quella che poi diventerà famosa con Adele. E invece un successo minore, ma sempre un discreto riscontro, lo riceveranno anche Once Upon a Time e la fiabesca Fairy Tale High. Ma un'altra hit di discreto successo è il singolo Down Deep Inside, che poi verrà usato per la colonna sonora del film Abissi del 1977. E adesso, da Once Upon a Time, sentiamoci la scatenata Rumor Has It. questa era Rumor Has It da Once Upon a Time 1977. Ovviamente con tutti questi grandi successi ormai Giorgio Moroder era più ricercato del pericolo pubblico numero uno e qualunque artista voleva farsi produrre il proprio disco dalle sapienti mani della coppia Moroder-Bellot. E quindi arrivarono anche altri diversi successi in ambito disco, sempre prodotti dalla coppia, come Zodiac di Roberta Kelly o The Runner dei Three Degrees, oppure il primo album, anzi uno degli album degli Sparks, per l'esattezza Number One in Heaven, e anche il singolo Beat the Clock. E sono tantissimi lavori che ha fatto Moroder per altre band, producendo gli dischi. Andiamoci a sentire appunto un paio di queste sue creazioni dal 1977. Roberta Kelly con Zodiac and The Three Degrees con The Runner. Tonight Alive, Radio Wombat, Giorgio Moroder. Oh, Capricorn's the old Tonight Alive, Giorgio Moroder. Hey! questa pura mestieranza a disco per Giorgio Moroder, con una hit generalista per Roberta Kelly con un Zodiac, invece questa The Runner per i Three Degrees sembra già che ci abbia un tiro diverso. Però non è finita per quel fruttuoso 1977 per Moroder, che infatti tirerà fuori un altro notevolissimo successo con la sua collaborazione con le Munich Machine, con il brano Get Out of Funky Train, che veramente è diventato popolare in qualsiasi discoteca di quegli anni, ma è un pezzo che, se avrete sentito qualche DJ set di fine anni 70, inizi anni 80, ha messo veramente chiunque, che è veramente un pezzo che, anche questo, che secondo me è una parte della storia, sicuramente un pilastro della storia della disco. E allora sentiamoci le Munich Machine con Get on the Funky Train nella sua versione da 12 pollici. Radio Wombat, Giorgio Moroder. Hey, welcome aboard the Funk Train. Destination Funk. Let's lay down some bass. Get rude with the mood. Come on, high hat. Questa era l'epocale Get Out the Funky Train, prodotta da Moroder per le Music Machine, veramente un successo in tutte le discoteche del mondo. L'avrete sicuramente già sentita questo pezzone. Però non è finita per questo prolifico 77 per il nostro Giorgio. In quell'anno lì farà uscire anche un altro suo album, che è From Here to Eternity, su etichetta Casablanca, nel 1977, e anche l'anno dopo Battlestar Galactica, nel 1978, sempre su Casablanca. Quindi non si ferma l'attività produttiva del nostro, e a questo punto non posso che farvi sentire From Here to Eternity per essere completi in questa biografia di Giorgio Moroder. Radio Wombat. From here to eternity, that's where she takes me. From here to eternity, with love, with love, with love. questa era From Here to Eternity, pubblicata su Casablanca nel 1977, e poi la carriera degli album di Moroder proseguirà con un altro ottimo album del 1979, E uguale MC quadro, dalla formula di Einstein. Però volevo un po' scombinare i piani e andare a vedere quello che poi sarà la futura carriera di Moroder, perché la disco stava iniziando a mostrare un attimo la corda e Moroder, avendo anche una certa affinità, si getta a capofitto nel lavoro sulle colonne sonore per il cinema, e già nel 1978 c'è il suo primo colpaccio con The Chase, tratta dalla colonna sonora del film Fuga di mezzanotte, che tra l'altro le è valso il suo primo Oscar come colonna sonora, Oscar ovviamente ottenuto l'anno successivo nel 1979. E tra l'altro collabora anche alla colonna sonora di Thank God It's Friday, Grazie a Dio è venerdì, che si aggiudicherà un altro Oscar come migliore canzone di colonna sonora, che era stata scritta insieme a Paul Jabara e cantata nell'omonimo film Thank God It's Friday da Donna Summer stessa. E quindi sentiamoci questa doppietta di original soundtrack, prima con The Chase, presa da Fuga di mezzanotte del 1978, e poi Donna Summer con Last Dance da Thank God It's Friday. Tonight Alive, Giorgio Moroder. Thank you. questo è sempre Tonight Alive su Radio Wombat e questa è sempre la puntata su Giorgio Moroder. E adesso Last Dance, Donna Summer. Oh, questa era Last Dance, cantata da Donna Summer per il film del 1978 Thank God It's Friday, canzone che ha fruttato l'Oscar per la migliore canzone di colonna sonora di quell'anno, e da lì inizierà proprio la carriera fulminante nelle colonne sonore dei film anni 80. Infatti, giusto per ricordarvene qualcuno, Moroder ha prodotto le musiche dei film tra i quali Flashdance del 1983 con, vi ricorderete, What a Feeling, che gli ha fruttato roba tipo 13 dischi di platino, una cosa del genere. Poi ha fatto anche la colonna sonora di Top Gun del 1986 e anche Over the Top, se vi ricordate, quella con Stallone che fa il tipo e fa tornei di Bracci di Ferro, e aveva fatto Moroder anche quella. E poi, tra l'altro, nella colonna sonora del 1986 di Top Gun, Moroder l'ha fatta insieme al suo allievo Harold Faltermeyer, che detto così non vi ricorderà niente, però vi dirò che è il famoso Axel F che ha prodotto e ha fatto tutta la colonna sonora di Beverly Hills Cop. Quello era Harold Faltermeyer, allievo di Giorgione Moroder, e insieme appunto avevano composto la colonna sonora di Top Gun di Tony Scott, e in particolare il brano, vi ricorderete, quella smielata da glicemia 2000, ovvero Take My Breath Away, proprio quella, esatto, e proprio grazie a quella smielata altri due nuovi Oscar per il nostro amico Giorgio Moroder. Però non si ferma qua, perché produsse anche la colonna sonora di American Gigolo con il bellone Richard Gere, e tra l'altro anche tutta la colonna sonora, non mi ricordo se tutto o una parte, di Scarface di Brian De Palma del 1983. Un'altra così che mi viene in mente, di altra colonna sonora, sempre dove ci ha messo le mani il nostro, è The Endless Story, la storia infinita del 1984, con quell'altrettanto famosa canzone della colonna sonora. Ma non è finita qua. Sempre per rimanere a cavallo tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, il buon Giorgione Moroder è anche venuto in Italia per produrre tre canzoni per l'esaltezza, Like a Yo-Yo, Pirate of Love e Love is Like a Magic, e anche Shadows of the Night, della regina del trash Sabrina Salerno. Sì, ebbene sì, Giorgione si è prestato anche all'abbondante Sabrina Salerno. Però sentiamoci da questo periodo il grandissimo successo dei Blondie, Call Me. Radio Wombat, Tonight Alive. I'm questa era Call Me dei Blondie, numero uno sia in America che in Inghilterra nel 1980, grandissimo successo dei Blondie. E per arrivare a giorni più recenti, tra l'altro nel 2008 Moroder ha collaborato anche alla colonna sonora di Inglourious Basterds, Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino, cosa che tra l'altro non sapevo, sono anche andato a vederlo e più di una volta, ma questo dettaglio mi era sfuggito. E poi nel marzo del 2012 a un convegno di musica ad Ibiza ha annunciato ufficialmente la sua collaborazione con i Daft Punk per il loro quarto album Random Access Memory, e nel disco uscito nel maggio del 2013 partecipa alla terza traccia intitolata Giorgio by Moroder, dove appunto racconta parte della sua vita. Sicuramente i Daft Punk è stato un tributo dei Daft Punk per una figura che li ha sicuramente influenzati tantissimo. Poi, sempre parlando dei giorni recenti, nell'aprile 2014 ha remixato anche il brano Midnight dei Coldplay, e anche questo è stato un grande successo per lui. Poi vabbè, tutti hanno voluto collaborare con questa grandissima figura di produttore. Basta ricordare, che ne so, Kylie Minogue, sia ma anche roba estremamente commerciale, vabbè, appunto Kylie Minogue, ma anche Britney Spears mi sembra che l'abbia chiamato per lavorare su una sua canzone. Insomma, il suo status di mito è sempre vivo anche ai giorni nostri. Infatti l'anno scorso, nell'agosto del 2016, a 76 anni suonati, Giorgio Moroder ha tenuto un DJ set nel suo paese natale, ad Ortisei in Sudtirolo, davanti a 12.000 persone, occasione nella quale ha donato i suoi 13 dischi di platino ottenuti per la colonna sonora di Flashdance al museo di Ortisei, e tuttora continua a andare a fare le sue serate commemorative in giro per il mondo con il suo status di autentico mito. E quindi questo sabato sera mi sembra di essere arrivato anche parecchio over, parecchio lungo, quindi non mi resta che abbandonarvi e lasciarvi finire di godere del vostro sabato sera, in questo caso con un'eccezione per Tonight Alive. Di solito mettevo sempre un concerto, un DJ set finale del protagonista della serata. In questi casi, in questo caso, visto che sia il tempo è tiranno e sia per il fatto che Giorgio fondamentalmente è un produttore, quindi più che altro li produce i dischi, non è un granché come DJ, mette semplicemente un disco dietro quell'altro, ho fatto una serata più lunga mettendo più dischi, diciamo, per compensare. E quindi non mi resta che salutarvi, lasciarvi a un ottimo, spero per voi, finale di sabato sera, e darvi appuntamento al prossimo sabato con Radio Wombat, Tonight Alive e, se avrete notato, anche Basement Records. Un bacione da Dalai Lama, buon sabato sera da Radio Wombat.